Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Fu tortura. L'Italia condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'irruzione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova nel 2001. Primo esame oggi in Consiglio dei Ministri per il documento di economia e finanza. Verranno alzate le stime di crescita, tagli per 10 miliardi anche agli enti locali e i sindaci protestano. Migliaia di persone, fra cui 3.500 bambini, intrappolate a Yarmouk, campo profughi alla periferia di Damasco, nelle mani dell'ISIS. A Tikrit in Iraq scoperte le fosse comuni. Calcio Coppa Italia, stasera la semifinale tra Fiorentina e Juventus, mentre attesa nel pomeriggio la decisione della giustizia sportiva sugli striscioni dell'Olimpico contro la madre di Ciro Esposito, il tifoso ucciso. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, il numero di sms durante la diretta è il 349-238-6666 e c'è il nostro sito www.radio24.it dove potete andare, iscrivervi e commentare la trasmissione e anche le passate edizioni e i podcast se volete. In apertura la decisione della Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Dopo la morte di Carlo Giuliani è stata una delle pagine più buie del G8 di Genova. Ora per il blitz alla scuola Diaz arriva la condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani. Per i giudici di Strasburgo deve essere qualificato come tortura quanto compiuto dagli uomini delle forze dell'ordine che la notte del 21 luglio 2001 fecero irruzione nell'edificio che ospitava gli attivisti del Genova Social Forum. La sentenza arriva dopo il ricorso presentato da Arnaldo Cestaro, un manifestante veneto che all'epoca aveva 61 anni, che rimase vittima del brutale pestaggio da parte della polizia, oltre che per le violenze subite dall'uomo al quale è stato riconosciuto un indennizzo di 45.000 euro. Il nostro paese è stato condannato anche per la mancanza di una legislazione adeguata a punire il reato di tortura, se i responsabili di quei fatti non sono stati mai condannati e soprattutto a causa dell'inadeguatezza delle leggi italiane, che quindi devono essere cambiate anche per evitare il ripetersi di violenze da parte delle forze dell'ordine, scrivono i giudici nella loro sentenza, con la quale hanno deciso all'unanimità che lo Stato italiano ha violato l'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo, in base al quale nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questi temi torneremo a parlare nel corso della trasmissione. Parleremo con Walter Verini, che è il capogruppo in Commissione Giustizia del Partito Democratico, Commissione Giustizia che ha appena licenziato un testo sulla tortura, e siamo sulle tracce, per così dire, di Arnaldo Cestaro, il ricorrente che ha vinto appunto il ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Vedremo se riusciremo a raggiungerlo nel corso della trasmissione. Siamo al DEF, il documento di economia e finanza. Le ipotesi di tagli stanno già generando reazioni, in particolare dai comuni. Comunque, oggi il primo esame del Consiglio dei Ministri. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, una riunione interlocutoria quella di oggi del Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DEF, il documento economico finanziario. Il governo a caccia di 10 miliardi dalla spending review per evitare l'aumento dell'IVA dal 22 al 24% il prossimo anno e nel 2017 per evitare di arrivare al 25% occorrono 5 miliardi. Si parla probabilmente di tagli agli sprechi negli enti locali, dal taglio alle partecipate, all'adozione di costi standard, una revisione delle agevolazioni fiscali, la cosiddetta tax expenditure. La crescita dovrebbe essere appena più sostenuta del previsto, a più 0,7% invece dello più 0,6%, il deficit stabile al 2,6% del PIL e sopra l'1,8% nel 2016 per avere più margini di manovra. Il debito invece dovrebbe essere ridotto progressivamente a 124,6% nel 2018. Previsto anche un piano di privatizzazioni per 10 miliardi, ovvero 0,7% del PIL, un avanzo primario in termini nominali che aumenterà progressivamente passando dall'1,7% del 2014 al 3,9% del 2018. Ma a parte questo, il governo pensa anche a riforme per convincere Bruxelles ad una nuova flessibilità che vale, ricordiamo, tra i 7 e gli 8 miliardi. Si parla di tagli e riorganizzazione di sanità e assistenza, intervento sulle pensioni di invalidità per eliminare abusi e una revisione del sistema di assistenza, oggi diviso tra INPS, comuni comuni e ASL, comunque come dicevi tu da studio, i comuni non ci stanno e dicono basta tagli, quindi il governo prende tempo per incontrare poi i comuni. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, anche di questo torneremo a parlare più avanti, avremo in diretta con noi il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, perché i tagli si concentrerebbero proprio sulle città metropolitane. Una notizia appena battuta dalle agenzie: l'autorità per la sicurezza nucleare francese ha annunciato un'anomalia tecnica nel serbatoio del reattore nucleare di Flamanville in Normandia. Siamo nel nord della Francia, appena avremo ulteriori aggiornamenti ve li daremo. Apriamo adesso un'ampia pagina dedicata agli esteri e iniziamo dalla cronaca sul campo tra Siria ed Iraq. L'ISIS a due passi da Damasco, il campo profughi di Yarmouk sotto assedio, la città di Tikrit appena strappata agli jihadisti, dove si trovano le testimonianze delle uccisioni di massa. Spari, urla, inni di guerra. I miliziani dell'ISIS hanno ormai conquistato quasi tutto il campo profughi di Yarmouk, a sud di Damasco. Testimoni parlano di esecuzioni sommarie e di decapitazioni. Assediati fuori dalle forze del regime di Assad, dentro dagli jihadisti, i 18.000 rifugiati palestinesi non riescono a scappare e gli aiuti umanitari non arrivano. Non ci sono né cibo, né acqua, né farmaci. La situazione è al limite del disumano, condanna l'ONU, che ha chiesto l'accesso anche per la possibile evacuazione dei civili. Case e strade sono distrutte, i negozi non ci sono più, sta dicendo questa donna, mentre i bambini piangono. In tutto Yarmouk ce ne sono 3.500. Per le Nazioni Unite si tratta di una vergogna universale. E il mondo guarda attonito anche la scoperta delle ultime ore in Iraq. Alle porte di Tikrit, città fino a poco fa sotto assedio dello Stato Islamico, poi liberata, sono state trovate 10-12 fosse comuni. Per ora 20 corpi tirati fuori. Si tratta delle vittime del massacro del 12 giugno 2014. Quando gli jihadisti dicono di aver ucciso 1.700 soldati iracheni. Oggi, in onore delle vittime, la salva d'artiglieria sparata dai militari. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto oggi in Kenya la marcia in memoria delle vittime e contro il terrorismo dopo l'assalto all'università di giovedì scorso. Roberta Pellegatta per un punto in diretta con noi. Roberta. Sì, buongiorno. Nel terzo e ultimo giorno di lutto nazionale il Kenya marcia, come dicevi, contro il terrorismo in una manifestazione che coinvolge l'intero paese. La marcia è iniziata alle 10 di questa mattina ora locale, le nostre 11, mentre nel pomeriggio si terrà una veglia in ricordo delle almeno 148 vittime del massacro di Garissa avvenuto il 2 aprile scorso per mano degli integralisti somali di Al-Shabaab. I terroristi, lo ricordiamo, sono entrati in azione nel campus all'alba, quando i ragazzi dormivano ancora, e la carneficina è finita dopo 16 ore a rimanere uccisi gli studenti di fede cristiana. Ma la manifestazione pacifica nazionale e popolare contro il terrorismo non è l'unica risposta del Kenya alla strage di studenti. C'è stata anche la prima risposta militare del paese. Ieri l'aviazione militare ha bombardato due campi di Al-Shabaab in Somalia, nella regione di Jeddo, al confine con il Kenya, e i caccia kenioti hanno colpito le postazioni dei terroristi, ma la copertura nuvolosa ha impedito di stabilire quali danni e perdite abbia causato l'operazione. Vero è che ieri un testimone alla BBC aveva rivelato che il bombardamento ha causato la morte di 3 civili, di diversi capi di bestiame, oltre che la distruzione di un pozzo, mentre un portavoce delle forze speciali kenioti aveva dichiarato di aver solo distrutto postazioni terroristiche. E per il momento è tutto. Grazie Roberta Pellegatta, e su queste vicende il commento è l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Una domanda nel caos sorge spontanea: chi combatterà il terrorismo che si snoda come un serpente sulla carta geografica, dall'Afghanistan alla Mesopotamia, dalla penisola arabica al Corno d'Africa, dal Maghreb alla Nigeria? Dal fatale 11 settembre 2001 a oggi migliaia di terroristi sono stati liquidati, ma il fenomeno si allarga ed è arrivato anche in Europa con i cani sciolti del jihadismo, le cellule di Al-Qaeda, dell'ISIL e i foreign fighters. La risposta alla domanda può sembrare provocatoria: lo Stato Islamico lo combatteranno, se lo vorranno, gli stessi stati che lo hanno alimentato in questi decenni, e dove alcuni di questi stati non esistono più, come in Iraq, in Siria, in Yemen, in Libia, si dovrà pensare a come riempire il vuoto nel giorno in cui si eliminassero i jihadisti, cosa che al momento solleva seri dubbi. Mentre l'Arabia Saudita, alleata degli USA, bombarda i ribelli sciiti Houthi, Al-Qaeda fa quello che vuole, il califfato continua a compiere i suoi orrori in Iraq e a Damasco decapita i palestinesi del campo profughi di Yarmouk. Se poi lo Stato Islamico, Al-Qaeda e il gruppo Jabhat al-Nusra attivi in Siria si alleano, il Medio Oriente rischia di sprofondare nella barbarie. Il problema principale è che non ci siamo noi e loro, i buoni e i terroristi. Quelli definiti terroristi sono le espressioni di politiche sia di lunga data che di breve periodo con le quali gli attori del Medio Oriente, alleati e clienti dell'America e dell'Europa, hanno manovrato, finanziato e sostenuto ideologicamente i gruppi radicali islamici. O cambiamo politica o voltiamo la testa dall'altra parte. Così dunque Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, nella sua analisi. La cronaca adesso che ci porta innanzitutto a Bergamo, dove una persona è morta nell'incendio di un pub. Uno scoppio fortissimo, secondo alcuni testimoni, intorno alle 4:15 del mattino, e poi le fiamme. Il locale aveva chiuso da poco e al suo interno c'era il proprietario Gigi Parma, di 48 anni, che ha perso la vita. Il pub, in via Previtali, era molto frequentato e il titolare era noto in città anche per essere il vicepresidente del gruppo caffè Bar Gelateria dell'associazione commercianti. Il fuoco ha bruciato il locale e il fumo si è propagato nel palazzo, allarmando i condomini. Un bambino di 3 anni è stato ricoverato in ospedale per il dubbio di inalazioni tossiche. Gli altri condomini, invece, sono stati medicati sul posto dal 118. È ancora inagibile il primo piano dell'edificio per effettuare controlli strutturali, mentre i residenti ai piani superiori sono rientrati. Le cause dell'esplosione sono ancora da chiarire, fa sapere la questura di Bergamo, e così anche l'azienda regionale Emergenza Urgenza. Come abbia avuto origine l'incendio piuttosto che lo scoppio, penso che sia ancora un'indagine della magistratura, della polizia scientifica. Insomma, al momento, non dato per certo lo scoppio e l'incendio, non ci sono, chiamiamola così, motivazioni che possono addurre a qualsiasi altra cosa. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sul terremoto dell'Aquila potrebbero arrivare altre inchieste, a dirlo il sindaco Massimo Cialente, intervenuto questa mattina a 24 Mattino, ospite di Anna Migliorati. C'è un controllo assoluto, ci sono chiaramente tentativi di infiltrazione, perché dovunque sono i soldi, no? L'abbiamo visti ovunque. Abbiamo intrecciato un setaccio molto fitto. Io, però, di inchieste ce ne sono state, voglio dire, anche. Sono state molte, sono sollecitate da me. Vede, io faccio una piccola cosa, lei capisce, il sindaco, su tutto in una città di provincia, viene a sapere un po' tutto, no? Allora io, qualunque notizia ho che sia un po' strana, mi faccio una chiacchierata o con il procuratore o con la guardia di finanza. Dobbiamo aspettarci altra pulizia? Secondo me sì, stiamo controllando alcuni subappalti e così via, e potrebbe essere che, comprovate dalle indagini, si abbia la possibilità di intervenire. E a proposito di necessità di pulizia, ci sono aggiornamenti sull'inchiesta che riguarda la CPL Concordia, quella che ha portato in carcere il sindaco di Ischia. Ministri, politici, amministratori pubblici. Sta emergendo di tutto, dalle carte dell'inchiesta sulla metanizzazione dell'isola di Ischia, che coinvolge direttamente la CPL Concordia. Da un verbale di un manager arrestato viene a galla un vero e proprio sistema inventato dal responsabile delle relazioni istituzionali Francesco Simone, che assicurava alla cooperativa appalti pubblici, riusciva ad orientare le nomine e a controllare l'affidamento degli incarichi. Per oleare la macchina di tangenti e di potere, CPL Concordia avrebbe accumulato fondi neri in Tunisia. Nelle loro carte gli inquirenti infatti scrivono: emesso come la stipula di contratti di consulenza con la società tunisina riconducibile a Simone, siano utilizzati dalla CPL per effettuare sospette transazioni di denaro. Un fiume di quattrini in nero che sarebbero dunque serviti per pagare le tangenti. Ed è per questo motivo che Simone, allarmato dalle intercettazioni telefoniche ambientali, voleva fuggire proprio in Tunisia, dove vantava basi sicure. Daniele Biacchesi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio, con una parte giocata, che è la semifinale di Coppa Italia, e una parte invece che riguarda la giustizia sportiva nella giornata di oggi. Giovanni Capuano, buongiorno. Da dove vuoi partire? Partiamo dal calcio giocato, va? Partiamo dal calcio giocato e da una notizia proprio di questi secondi, cioè in vista di Fiorentina-Juventus di questa sera, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. All'andata viola che hanno vinto a Torino per 2-1, potrebbe non esserci Tevez nello schieramento della Juventus, leggero problema muscolare questa mattina nel corso dell'allenamento di rifinitura per l'argentino, quindi molto probabilmente Allegri non rischierà, anche perché tra una settimana c'è la Champions League e quindi Tevez dovrebbe partire dalla panchina, rendendo così ancora più complicato complicata l'impresa della Juventus, che deve vincere con almeno due gol di scarto, oppure con un gol di scarto ma segnandone tre. Questo in virtù del risultato dell'andata. Allegri fino a questa mattina aveva detto di volerci credere e di voler tentare l'impresa anche per tenere aperta la possibilità di fare il triplete per la Juventus, che ha praticamente vinto lo scudetto, si può giocare la fase finale della stagione in Champions League e avrebbe bisogno di incastonare anche la finale della Coppa Italia. Però vediamo. Questo dal lato appunto del calcio giocato. Giustizia sportiva, l'attesa è tutta per le decisioni per gli striscioni dell'Olimpico, no? Sì, arriveranno nel pomeriggio, in realtà possono arrivare da un minuto all'altro perché non esiste una tempistica esatta. Per esperienza ti dico che andremo nel tardo pomeriggio. Che cosa succederà? Ci sono due scuole di pensiero. La prima è che si risolverà tutto con un'ammenda e al massimo con una diffida per la Roma, perché le norme sono scritte in maniera da non prevedere chiusure di settori o peggio per i club in casi come quello di sabato all'Olimpico. Però è anche vero che ci sono dei precedenti che riguardano la Roma, è anche vero che gli striscioni non sono stati soltanto quelli verso la madre di Ciro Esposito, ma ci sono anche stati striscioni di vicinanza e di rivendicazione verso Daniele De Santis, che è la persona che andrà a processo per l'omicidio di Ciro Esposito, e poi ci sono stati i soliti cori di discriminazione territoriale nei confronti dei napoletani. Quindi, messo tutto insieme, il giudice sportivo potrebbe arrivare anche alla decisione di sanzionare la Roma con la chiusura di quel settore della curva sud per almeno una giornata. Comunque vada, ci sarà da discutere, perché come ci sono due ipotesi sulle sanzioni, ci sono anche due scuole di pensiero, e a Roma e dintorni si fa notare che in passato gli striscioni anche odiosi, quelli per Superga, per tante altre tragedie del calcio, non sono mai stati sanzionati con la chiusura di una curva. Fu tortura. Italia condannata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'irruzione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. C'è un'anomalia tecnica nel serbatoio di un reattore nucleare a Flamanville in Francia. Anomalia, ha precisato poco fa il capo della divisione locale dell'Authority che si occupa di nucleare, nella composizione dell'acciaio di determinate porzioni del coperchio del fondo del serbatoio. Aggiornamenti appena ne avremo. Primo esame oggi in Consiglio dei Ministri per il documento di economia e finanza. Verranno tra l'altro alzate le stime di crescita. Migliaia di persone, fra cui 3.500 bambini intrappolati a Yarmouk, campo profughi alla periferia di Damasco, nelle mani dell'ISIS. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo chiamata perché la sua città, come le altre città metropolitane, è una delle candidate, per così dire, ad essere sottoposta ai tagli che il governo starebbe analizzando nel DEF, il documento di economia e finanza. Vorrei sapere innanzitutto da lei se ci sono stati contatti con l'esecutivo nelle ultime ore e l'intenzione del governo, se non di arretrare, quantomeno di dialogare con voi oppure no. A noi giovedì abbiamo un incontro tra i sindaci delle città metropolitane in ANCI col presidente Fassino per intraprendere una strategia comune. Non ci sono contatti, il comportamento sinora del governo è irresponsabile e grave, perché dal 2011 ci sono stati 23 miliardi di euro di tagli agli enti locali, e qui voglio chiarire, quando si dice tagli alle città metropolitane, che è una riforma importantissima entrata in vigore il 1 gennaio, non significa tanto e solo tagliare ai sindaci, ma tagliare ai cittadini nei servizi essenziali, che tanto per capirci sono dissesto idrogeologico, strade, ambiente, trasporto pubblico ed edilizia scolastica. È vero anche, sindaco, che da risparmiare, da tagliare ce n'è parecchio anche a livello di comuni, insomma, no? Se si vanno a confrontare le spese, penso ai 77 milioni di euro di affitti che ogni anno paga il comune di Roma, penso a, stamattina guardavo sul sito soldipubblici.gov.it, l'anno scorso il comune di Milano ha speso 32 milioni di euro in servizi postali contro i 17 che spendete voi, insomma. Qualcosa secondo me da rifinire ci può stare, no? Ma lo dice a me il governo da 4 anni senza soldi, non posso che darle ragione, che bisogna, come dire, da questo punto di vista ottimizzare e risparmiare. Però attenzione, perché con questa manovra, e questo è un altro aspetto grave, si vanno a colpire proprio quelle città metropolitane che da tempo hanno intrapreso percorsi virtuosi, hanno tagliato, hanno rispettato il patto di stabilità e quindi per coprire buchi che stanno in altre parti si continua a tagliare anche con chi ha assunto, come diceva lei, ormai da tempo comportamenti virtuosi. Quindi, mi scusi, lei dice che queste città, in particolare le città metropolitane, non hanno margini di pulizia di bilancio, secondo lei? Ma tutti li hanno. Io posso dire, ovviamente posso parlare della mia città e le posso dire che i bilanci per quanto riguarda la città metropolitana non stanno in perdita, addirittura c'è avanzo, ci sono somme che non possiamo spendere perché c'è il patto di stabilità. Poi ci saranno magari anche alcuni miei colleghi che hanno avuto diversi problemi, c'è ad esempio qualche città che ha sforato il patto di stabilità, quindi sicuramente ogni città è diversa dalle altre, non è che si possono mettere tutte sullo stesso piano. Quello che è sullo stesso piano sono i tagli. I tagli sono molto pesanti, ma quello che è strano in questa operazione fatta dai tecnici del Ministero è che vengono penalizzate in particolare poi alcune città metropolitane e questo, diciamo, lascia molto molto perplesso. Che sarebbero? In particolare Napoli, poi anche Roma e anche Firenze, con dei criteri che francamente non riusciamo a capire che appaiono irragionevoli. Cioè, ad esempio, alcune opere pubbliche vengono considerate con un costo maggiore in una città e invece un costo minore in un'altra e quindi si danno meno soldi. Insomma, ci sono delle operazioni molto discutibili e poi noi giovedì sottoporremo. Ma secondo lei da cosa dipende la discutibilità, questa gestione della cosa? Perché Firenze, Roma e Napoli? E questo è da capire, se sono i tecnici che hanno una prevalenza sulla politica o è la politica che si nasconde dietro ai tecnici. Io posso dire che do un giudizio molto negativo su come il governo si sta comportando in questi giorni. Spiego. Siccome loro vogliono evidentemente porre rimedio a una situazione finanziaria che è complicata, sì, e che vogliono dare anche delle risposte in termini più di propaganda, come più soldi ai pensionati, meno tasse, devono da qualche parte trovare queste risorse. Il modo migliore è per tagliare ai sindaci delle grandi aree urbane, sì, e dei piccoli comuni, perché delle città metropolitane fanno parte anche i sindaci dei piccoli comuni, perché poi se va male il servizio alla fine si scarica sul territorio, si scarica sul sindaco. Il governo può anche dire: vedete, il paese non funziona, però ci sto io che do 80 sì, euro ai pensionati, che poi in realtà sì, non è vero, perché abbiamo visto gli 80 euro dei mesi scorsi dove sono andati a finire. Sono sempre tagli che vengono fatti a un'altra sì, parte. Quindi io sono, diciamo, noi siamo molto critici. Molto critico. Però non ho capito, De Magistris, a lei nello specifico che taglio verrebbe richiesto? Cioè, avete un'idea delle cifre? Siamo intorno ai 60-70 milioni di euro, a cui si aggiungono altri, cioè si rischia di arrivare a un taglio per la sola città di Napoli di 100 milioni di euro, a cui si aggiungono gli altri tagli. C'è, cioè, un'operazione sostenibile. Sì. Cioè, praticamente è una cosa assolutamente vi manderebbe in default, dice lei. Ma c'è il rischio concreto che diverse città metropolitane, ma quello che è più grave, sì, guardi, che questa riforma è entrata in vigore il 1 gennaio, sì, quindi come si può pensare di una riforma così epocale, cioè le città metropolitane, le grandi aree urbane, tagliando sì, il 30% al personale e tagliando per centinaia di milioni di euro? Cioè, io penso che qualunque persona che abbia un po' di buon senso si rende conto che è un'operazione fallimentare. Grazie a Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, e vedremo giovedì che cosa succederà e che cosa dirà il governo ai comuni. Saluto Walter Verini, che è capogruppo in Commissione Giustizia del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. L'abbiamo chiamata per la sentenza di oggi. L'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'irruzione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. È tortura, ma soprattutto la Corte di Giustizia Europea ci dice: voi il reato di tortura non ce l'avete e il problema è questo. Il 24 marzo è uscita dal lavoro di commissione proprio la legge che dovrebbe istituire il reato di tortura. Verini, a che punto siamo? Ma onestamente lo possiamo dire non perché ci sia stata questa sentenza, ma perché è un fatto. La Camera, l'Aula, giovedì avrà in discussione, in approvazione, questo provvedimento che è in seconda lettura, perché il Senato lo ha licenziato alcuni mesi fa. Sono previste delle modifiche rispetto al testo del Senato, per cui occorrerà un'ultima lettura, ma credo dal punto di vista dei tempi non biblica, e quindi finalmente il nostro paese potrà adeguare il suo ordinamento a quelle che sono le disposizioni e anche gli ordinamenti internazionali, le convenzioni. Quindi giovedì potrebbe già passare l'esame della Camera la legge? No, potrebbe, è già iniziata, già c'è stata la relazione in aula, già c'è stata la discussione generale e giovedì si iniziano a votare gli emendamenti dei sette articoli che il provvedimento In aula, e poi naturalmente passerà al Senato e vedremo quando dovrebbe passare al Senato, perché credo, visto il lavoro fatto in commissione, che essendoci delle modifiche non diciamo di straordinario rilievo, ma alcune modifiche ci saranno per adeguare meglio il testo alle convenzioni internazionali, sarà necessario un ulteriore passaggio al Senato. Mi dice una cosa, Verini, non vorrei i caratteri generali da lei, vorrei sapere che cosa sarebbe successo nel caso avessimo avuto quella legge con i fatti della Diaz. Quanto carcere si sarebbero presi i poliziotti? Beh, fino a 12 anni sicuro, perché naturalmente non sono un magistrato, perché ci sarebbe stato un dolo specifico, l'intenzionalità di compiere quegli atti e l'aggravante per il fatto di essere stati commessi quegli atti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi insomma sarebbe stata una, diciamo, adeguata misura. Perché si prevede un reato di tortura in generale e un aggravante nel caso sia commesso da pubblico ufficiale. È un reato comune, viene istituito un nuovo articolo di legge, se c'è un nuovo reato, il 613 bis per la cronaca, un reato comune che prevede dai 4 a 10 anni, che potrebbe essere compiuto da chiunque. Sì. Poi c'è naturalmente un aggravante, come diceva, nel caso in cui fosse commesso da un pubblico ufficiale, e con deve esserci anche un dolo specifico, una finalità, un'intenzionalità, insomma. E questo mi pare, c'è previsto anche il raddoppio dei termini di prescrizione, quindi insomma si dà finalmente una risposta, e questo conferma la ferita. Anche perché, Verini, mi scusi, è difficile che ci sia una tortura senza intenzionalità, tutto sommato, no? No, però a volte può capitare in certi contesti che magari un atto di violenza, che non è mai giustificata, sia chiaro, però in certi contesti venga compiuta e passare. Allora io voglio dire, la ferita della Diaz è ancora aperta, la condanna io credo che sia meritata, il nostro paese conferma che lo spread non era solo quello finanziario legato agli interessi dei titoli di Stato, ma è uno spread anche sui diritti civili, sui diritti umani, e questo lo conferma. E tuttavia non è che la polizia, le guardie penitenziarie siano tutte uguali a quelle che hanno operato alla DIA. C'è stata una parentesi terribile, una ferita aperta, ma la grande maggioranza delle forze di polizia operano nel rispetto della legalità e per la sicurezza di tutti noi, senza queste aberrazioni che abbiamo conosciuto a Genova in quell'occasione. Grazie Walter Verini, capogruppo in Commissione Giustizia del Partito Democratico, le auguro buona giornata, buon lavoro, e prima di andare in pausa per la borsa e poi tornare sui temi dell'estero, parliamo degli insulti razzisti in una partita delle giovanili del Milan. È una di quelle notizie che peggiorano la vita e che non sempre trovano posto nei giornali o nei notiziari. È capitato nel giorno di Pasqua al torneo giovanile di Forte dei Marmi. Due ragazzini di colore del Milan, di anni 10, durante la partita col Paris Saint-Germain, vengono beccati dal pubblico con fischi e sberleffi vari perché fisicamente più prestanti dei loro coetanei. Chi sia stato, se i tifosi francesi o altri genitori italiani, non è chiaro. Quello che è chiaro è che i due ragazzini residenti in Lombardia, ma nati in Etiopia e Costa d'Avorio, hanno ricevuto il battesimo del fuoco, una sorta di iniziazione al peggior calcio adulto, quello degli sfottò razzisti, dei bu per farti male a prescindere. L'episodio si è ripetuto anche in un'altra partita e uno dei ragazzini è uscito in lacrime. Viene da chiedersi, ma a questi genitori che dovrebbero preparare i figli a ben altre sfide, cosa sta succedendo? Perché sono sempre più arroganti, faziosi, più ultra degli ultra? L'altra domanda è, ma questo virus tocca solo la parrocchietta del calcio o si sta diffondendo anche nelle scuole e in altri sport? Se è così, anche il cartellino rosso non basta più. Dario Ceccarelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Ma sì, Raffaele da Milano ci scrive: se dite dov'è l'incidente nucleare in Francia, che non è un incidente, è un'anomalia riscontrata per il momento, è a Flamanville in Normandia, quindi nel nord della Francia, c'è questa anomalia ad un reattore nucleare, però non ci sono ulteriori dettagli al momento. Gianandrea Gagliani, direttore della rivista Analisi Difesa, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno anche agli ascoltatori. E anzi, bentornato Gianandrea. Senti, volevamo parlare con te di temi anche tirati fuori in un paio di interviste questa mattina dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Il tema, se vogliamo, è sempre quello: come si affrontano questi jihadisti che sono così operativi anche sul piano militare. Stiamo raccontando in queste ore delle violenze che avvengono a Yarmouk, dove ci sono decine di migliaia di persone bloccate, tra cui 3.500 bambini, e continuano a circolare notizie di orrori compiuti appunto dagli jihadisti del califfato. E tenete presente che siamo ad un passo da Damasco, la capitale della Siria. Oggi il ministro Gentiloni, in un'intervista al Corriere della Sera, dice: per contrastare il terrorismo è inevitabile il risvolto militare. Qualcuno potrà scandalizzarsi, ma questi gruppi vanno affrontati anche sul piano militare. Ma come, Gianandrea? Ma senti, sono frasi che mi lasciano un po' perplesso, quelle del ministro, intanto perché è vero che l'Italia partecipa alla coalizione contro lo Stato Islamico che combatte in Iraq, gli aerei italiani volano sull'Iraq, ma siamo l'unico paese dei 20 che, aderendo alla coalizione, hanno mandato aeroplani per combattere l'ISIS. Noi siamo l'unico, l'Italia è l'unico paese che non ha armato i suoi aerei. Per intenderci, i nostri 4 Tornado basati in Kuwait che volano sull'Iraq sono gli unici della coalizione che fanno solo sorveglianza, intelligence, non lanciano una sola bomba in testa ai miliziani, a quei criminali che tutti si ostinano, anche il ministro, a chiamare Daesh per non volergli riconoscere la dignità di Stato, ma che di fatto uno Stato sono, perché controllano un territorio grande come la Gran Bretagna, e hanno una loro amministrazione, un loro esercito, combattono anche con discreti successi, anche se negli ultimi tempi qualche rovescio l'hanno subito. E quindi mi pare che, insomma, al di là delle chiacchiere, poi se noi guardiamo come Italia anche alla Libia, non è che stiamo ricoprendo un ruolo militare di rilievo. Quindi dire che si combatte che con le armi, sì, ma sarebbe anche ora di farlo, e farlo sul serio, e magari farlo anche davanti alle nostre coste, dove abbiamo visto a Tunisi e quello che è successo con l'attentato con 4 italiani morti, insomma la loro presenza è molto evidente. Gianandrea, ma il raggio di azione degli jihadisti, non solo dell'ISIS ma anche dei gruppi che progressivamente si stanno collegando, non sta diventando troppo ampio per una gestione militare anche semplice della cosa? Beh, semplice non è di sicuro, perché l'ISIS sta ottenendo quel successo che aveva ottenuto 10 anni fa e più Al Qaeda. Dopo l'11 settembre, se ci ricordiamo, del 2001, moltissimi gruppi di ispirazione islamista si riconobbero nel network di Al Qaeda. Oggi lo stesso meccanismo si sta ripetendo con lo Stato Islamico, e nelle diverse aree dove sono attivi questi movimenti ci sono delle coalizioni. Ad esempio Boko Haram viene combattuto da una coalizione di stati africani appoggiati dall'Occidente, che stanno conseguendo in Nigeria anche degli ottimi risultati militari, strappando al Boko Haram alcuni territori. Lo stesso sta accadendo, dovrebbe accadere in Iraq, lo si vede meno in Siria, dove in realtà sembra che molti dei paesi aderenti alla coalizione siano ben felici di vedere le forze di Bashar Assad subire dei rovesci da parte delle milizie qaediste e anche delle milizie dello Stato Islamico. Quindi, insomma, c'è un'ambiguità di fondo in questa coalizione che in realtà non sta facendo una guerra vera allo Stato Islamico, e tutto questo va poi inserito nel contesto del grande conflitto fra sciiti e sunniti, che vede anche protagoniste l'Iran e altri paesi che non sono proprio considerati alleati in questa lotta contro i terroristi dello Stato Islamico. Grazie Gianandrea Gagliani, direttore della rivista Analisi Difesa e commentatore analista anche per Il Sole 24 Ore. Oggi è la giornata mondiale della salute, promossa dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dedicata quest'anno alla sicurezza alimentare. Ma proprio in questa giornata da Londra arriva un allarme sulla diffusione di una nuova generazione di batteri resistenti agli antibiotici, che solo nel Regno Unito potrebbe costare la vita ad 80.000 persone. È un allarme questo che l'OMS ha lanciato da tempo. È legato anche all'abuso di antibiotici nell'allevamento degli animali per la nostra alimentazione. Il nodo è nella ricerca, dice il direttore della Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della Salute, naturalmente, Marcella Marletta, al microfono di Anna Marino. È un allarme che l'OMS vuole sottolineare, ma che già da tempo noto Tanto è vero che il Ministero della Salute ha già organizzato una campagna di comunicazione per il corretto uso degli antibiotici. Non è la prima volta che ci accorgiamo di essere in un momento di allarme. Quello che è un consumo non appropriato è anche ciò che è più responsabile di una resistenza che viene dall'abuso di questi farmaci fatto negli anni passati. Quindi, non è soltanto un abuso che viene denunciato, ma anche il fatto che ci sono nuovi virus resistenti agli antibiotici attuali. Secondo lei sarebbe necessaria una nuova generazione di antibiotici, soprattutto per evitare quelle morti, migliaia di morti che Londra paventa, che Londra appunto indica come possibili? Anche questo sicuramente sì, cioè proprio perché si creano sempre più resistenze all'Italia, tra l'altro il paese con i più alti livelli di resistenza a questi medicinali, nuova ricerca e nuovi investimenti in ricerca per questi antibiotici sarebbero fondamentali. Ed è tutto per Effetto Giorno. I ringraziamenti: Paolo Corleone in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, i contatti Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, e il nostro sito internet www.radio24.it dove potete iscrivervi, commentare, dire la vostra, insomma tutto quello che vi pare. La trasmissione torna domani alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.